In Italia ci sono tre cose che non si trovano: un idraulico alla domenica, un mutuo quando ti serve, un taxi quando piove. Un posto in crociera invece lo trovi sempre, ma poi non è facile tornare alla vita di tutti i giorni. Se hai provato una crociera a Costa, è difficile tornare alla vita di tutti i giorni. Quest'estate scopri il Mediterraneo più bello. Costa Crociere, la vacanza che ti manca.